recarse destino, suave peregrino, perché l'alma vive in paz tranquillo, a quel tronco robusto, in che te busso la perfida ingrata, con intento cruel, barbaro ingiusto, fu e basso che andrà un grande sensato, e saccavo lì porta di soverano, che causa eterno ser al seno umano.